gli sassi. Nardo mio, nardo mio, nardo mio, guida miei passi. Guida, guida miei passi, io non so dove andar, io non so dove andar. O che te ne preghi onore, o che te ne preghi onore, camminiamo a poco a poco, a poco a poco. Esser qui non è qui poco di poterla ritrovar, di poterla ritrovar. Yeah. Gesù che cosa ha detto? Gesù che cosa ha detto? mattino. Non mi impedite.